Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Che differenza c'è tra una marchetta pagata da Berlusconi con i nostri soldi alla D'Addario e una pagata da Santoro sempre con i nostri soldi? Penso che con quello che ha pagato la RAI per averla ad anno zero si sarebbe potuta fare un'orgia colossale con la D'Addario e tutte le altre escort. Fabio. Vorrei ricordare la figura di un uomo straordinario. Il suo nome è Simone Neri, un messinese che è di esempio per tutti. Aveva 28 anni. Durante l'alluvione di Giampilieri, Simone ha perso la propria vita per salvarne altre 8. Alle 21, l'ultima telefonata alla sua ragazza. «C'è un bambino che piange, vado a salvarlo. Qualsiasi cosa succeda, ricordati che ti amo». Queste sono state le sue ultime parole prima di essere travolto dal fango, poiché stremato. Salvatore. Sono incredulo e preoccupato di fronte a ciò che ho sentito in queste ultime ore. In questo momento non è grave solamente in una situazione economica come questa il rischio di elezioni anticipate, bensì soprattutto gli attacchi contro Napolitano e la Consulta. Pensare che ci siano dei dubbi su ciò che è successo può anche essere umano da parte del Presidente del Consiglio, ma dire pubblicamente che a lui non interessa ciò che dice il Presidente della Repubblica e dire pubblicamente che avrebbe dovuto fare pressioni su alcuni giudici della Consulta mette a grave rischio le istituzioni democratiche e la democrazia del nostro Paese. Si evince da questi suoi sfoghi, a mio parere, che il fatto che la maggioranza dei cittadini gli abbia dato fiducia non solo lo legittimi a governare, ma gli dia anche la libertà di poter fare ciò che vuole contro chiunque e soprattutto anche contro le istituzioni e le sue regole, che sono il fondamento della democrazia in un paese. Io mi auguro che questo delirio di onnipotenza sia mitigato da una persona, Gianfranco Fini, che ha un profondo senso dello Stato e delle istituzioni e che riporti lo scontro all'interno di regole che sono basilari per non compromettere la democrazia. Tantissimi auguri al nostro meraviglioso paese e alla democrazia. Renato. Il numero dei sequestri di droga è una spia della quantità circolante. Ovvero, più se ne sequestra, più si presume che ce ne sia in circolo. Mi chiedo se si possa fare la stessa proporzione per i magistrati. Ovvero, il numero dei magistrati che lasciano la magistratura per entrare in politica e scelgono uno schieramento potrebbe dare un'idea della proporzione di come sono schierati i magistrati all'interno della magistratura e di quale fine perseguano realmente. Alessandro. Come mai la destra ha sempre dichiarato che il lodo Alfano non era un provvedimento ad persona ma difesa di Berlusconi? Mentre ora dichiara che la bocciatura da parte della Corte Costituzionale rappresenta un attacco politico al Premier. Delle due l'una. O mentivano prima, o stanno strumentalizzando la sentenza ora. Massimo. Se Napolitano avesse detto di essere non solo dalla parte della Costituzione, ma anche dalla parte degli italiani che hanno votato questo governo, allora sì che avrebbe dimostrato di essere il presidente di tutti gli italiani. Michele. Caro direttore, le speranze di Berlusconi, dopo la delibera della Corte Costituzionale, sono naufragate. Ed il personaggio, con i nervi già logorati da mesi e mesi di campagne mediatiche sulla sua vita privata, è uscito con commenti a caldo ed espressioni che non mi sono affatto piaciuti. Però lo voterò ancora, perché insieme alla Lega è l'unico che si è impegnato seriamente per arginare quell'evasione straniera che troppi membri dell'intelligenza e della nomenclatura, dall'alto dei loro valori, vedono come una risorsa e non come una sventura, dato che non ci convivono. Edoardo. A quel simpatico signore di Pisa che mercoledì sera, intervenendo alla vostra radio, sosteneva che Silvio Berlusconi non voleva essere processato perché è colpevole, non è nemmeno venuto il dubbio che i nostri giudici sono dalla stessa sua parte e condannerebbero un innocente senza battere occhio. Io stesso sono una vittima dei giudici di sinistra che affollano il Tribunale per le cause di lavoro di Roma. Mi sono trovato con stupore a dover pagare a un'ex commessa gli straordinari che non aveva richiesto e che non aveva mai fatto, dopo che i miei e i suoi testimoni avevano asserito che il motivo della causa era puramente inventato. E dopo che un testimone aveva fatto capire in maniera esplicita, sotto giuramento, che la mia controparte le aveva offerto una ricompensa nel caso avesse testimoniato il falso. Ho 47 anni e avevo un'idea della giustizia diversa. La Costituzione parla di giustizia uguale per tutti, ma non menziona l'incapacità dei giudici, la loro fedeltà a uno schieramento politico e l'astio per chi dice loro in faccia che sono di parte. Io mi incavolo quando sento dire che la legge è uguale. E non credo sia salubre per una persona di schieramento politico ben evidente farsi giudicare da giudici come questi. Sergio. In Italia i veri comunisti non ci sono più. O quantomeno non ci sono più persone che siano della tradizione che questo aggettivo comportava nel nostro paese. In questo aveva assolutamente ragione Montanelli, che lo sosteneva già 15 anni or sono, rammentando di averli combattuti tutta la vita in quanto pericolosi, ma proprio per questo gente seria e capace. Ma nei giorni scorsi ho avuto l'ennesima conferma che forse i vecchi comunisti non esistono più, ma ne esistono dei nuovi, i berlusconiani. Oggi che a sinistra non ci sono più verità o certezze, ma solo dubbi e frustrazioni, sono loro, los Berluscones, i nuovi comunisti, portatori di verità assolute, dotati di ferrea ed incrollabile fede nel capo, capo che fa bene tutto e sempre, e che sul momento magari non riusciamo a capire, proprio perché a noi comuni mortali a volte può apparire imperscrutabile. Parlo di gente comune che invidio, allo stesso modo in cui invidio chi ha la fede in Dio. Proprio perché, essendo una povera pecorella che ha perso entrambi i tipi di fede, conosco bene il conforto e la serenità che se ne può trarre per affrontare le discussioni al bar. Gianluca, provincia di Reggio Emilia. Un tempo si riteneva importante presentare a tutti, bambini compresi, storie edificanti. Attraverso queste storie vere, l'ascoltatore o il lettore scopriva che la santità, la giustizia, la misericordia, la bontà, eccetera, sono possibili e quindi imitabili. Ma per far questo sono necessari uomini buoni. Non mi sembra affatto, però, che la nostra informazione, che, mentendo, si lamenta in vari settori di non essere sufficientemente libera, abbondi di uomini buoni, che sanno vedere e proporre il bene. Se guardo a certi tribuni tipo Santoro o Travaglio, ma gli esempi potrebbero essere molti, osservo che la loro malizia è persino più grande del male che sembrano voler sconfiggere e schiacciare. La loro logica è come quella dei rivoluzionari giacobini o bolscevichi che, dandoti l'idea di voler riformare ciò che è sempre riformabile, vollero invece distruggere il vecchio odiato regime, portando i popoli, che pensavano di rappresentare, a una condizione ben peggiore, e cioè al terrore e alla logica dei sospetti. Io invece voglio proporre una esperienza di vita edificante. Si tratta della storia di padre Fabio Gilli, un missionario comboniano che, mentre era in missione a Togo, all'età di 35 anni, in breve tempo perse la vista. Ma dopo il dolore iniziale e la faticosa ricerca del perché di tutto ciò che gli accadeva, attraverso la preghiera e l'aiuto dei confratelli, ha trovato non solo la serenità, ma addirittura la gioia. Dopo aver appreso il Braille ed essersi accorto dell'esistenza in Togo di molti non vedenti, con l'aiuto richiesto a molti benefattori, è riuscito a far costruire un grande istituto, dove i ciechi possono davvero edificare la loro vita, con l'apprendimento non solo di cose tecniche, ma anche di valori morali. Il prossimo anno l'istituto Kekeli Neva Fiat Lux festeggerà i 25 anni di fondazione, e i festeggiamenti sono organizzati da quelli che allora erano dei bambini, e ora sono anche laureati. Ecco che cosa manca alla nostra informazione. Non certo la libertà, ma la capacità di formare informando. Sembra incredibile, ma nemmeno il devastante terremoto e le inondazioni che hanno colpito le povere popolazioni dell'Estremo Oriente riescono a far rinsavire i moderni moralizzatori. Claudio. Non limitatevi a dire che il Presidente del Consiglio è fatto così, non è un uomo politico, eccetera. Non difendetelo, perché questa volta non è la solita barzelletta in diretta. Io che mi considero un liberale riformista alla Giolitti, alle Einaudi, oggi ho 55 anni e ho sentito parlare di De Gasperi da mio padre. Ho vissuto personalmente l'atteggiamento di Berlinguer e di tutto il suo partito durante il rapimento Moro. Tutto il vecchio PC rimase ancorato alla fedeltà repubblicana e alla Costituzione. Erano gente seria e uomini veri. Con questi politici, tutti i cittadini erano garantiti nelle difficoltà di uno Stato che poteva sgretolarsi. PC, DC, PRI, MSI, PLI, PSI. Tutti furono uniti in una solidarietà che salvò la nazione. Quello che è triste non è Berlusconi, avviato ormai verso il tramonto, ma il centrodestra, incapace di staccarsi dagli interessi del capo, di condividere tutto con lui, anche le vicende personali. Non condivido con loro questo atteggiamento mieloso e compassionevole nei confronti del Silvio Nazionale, mentre poi si mette in croce il Franceschini perché si era permesso di dire che Belpietro e Rossella sono dipendenti di Berlusconi. Io ho ancora la pretesa di voler vivere in un paese normale. Questa torta va ridimensionata, in maniera che a spartirsela siano un vero pluralismo di soggetti, che poi è l'anima liberale. Fabio. Gentile direttore, la Caritas ha reso pubblico uno studio quinquennale sul rapporto tra immigrazione e criminalità. Il risultato che si voleva dimostrare è che non esiste un collegamento tra il numero di stranieri in Italia e il numero di reati. Come di consueto nel nostro paese, si leggono tabelle in netto contrasto con altre tabelle. Si apprendono notizie che smentiscono chiaramente altre notizie. Su questo tema, io vorrei evidenziare la situazione delle carceri italiane. Senza troppa precisione, posso ricordare alla Caritas che il 37% dei detenuti in Italia è composto da immigrati, pari a oltre 22.000 su un totale di circa 60.000 carcerati. Se è vero che il 5% della popolazione è di origine non italiana, si deduce che il tasso di criminalità straniera è smisuratamente influente e sproporzionato, altro che ininfluente. Intendevo portare a conoscenza dei lettori questa precisazione, sperando di non essere frainteso da coloro che confondono la realtà con la xenofobia. Marco. Caro Marco, le statistiche vanno maneggiate con cura e bisogna stare molto attenti perché è molto facile fare forza sui numeri per trovare conferma delle proprie idee, così come è facile trarre giudizi affrettati e sommari guardando solo un aspetto dei problemi. In particolare, la sua osservazione vede solo un lato certamente rilevante del problema, ma per questo non smentisce i risultati della ricerca della Caritas. Una ricerca in cui si afferma che non c'è un'emergenza criminalità per gli stranieri, anche perché il reato contestato a 4 stranieri su 5 riguarda proprio la violazione delle leggi sull'immigrazione. Mentre risulta molto bassa invece l'incidenza degli stranieri sul totale delle denunce per altri tipi di reati, come le rapine o l'associazione a delinquere. Ma soprattutto la ricerca ha dimostrato che per gli immigrati regolari il tasso di criminalità non si discosta da quello del resto della popolazione. Certamente, più alto è il peso degli immigrati clandestini. Una ragione in più per portare avanti allo stesso modo forti politiche di integrazione e un severo contrasto alla clandestinità. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è domani mattina alle 6:15. Continuate a scriverci.